prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Sono passati quasi tre mesi, era la prima domenica di settembre, quando Papa Francesco all'Angelus in Piazza San Pietro fece l'appello a ospitare una famiglia di profughi e di rifugiati, una per ciascuna parrocchia. Ebbene, parte ufficialmente il progetto della Caritas Italiana Rifugiato a Casa Mia. Ben ritrovati ancora da Mirko Cavallin. Questa iniziativa coinvolge più di 170 famiglie in tutta Italia, 150 parrocchie, 30 istituti religiosi, messi a disposizione circa 1000 posti per altrettanti cittadini stranieri in difficoltà. Ovviamente è un numero ampiamente insufficiente a garantire l'ospitalità di tutti coloro che chiedono asilo e ospitalità nel nostro paese. E questo progetto è quello appunto della microaccoglienza. La famiglia è perno dell'iniziativa. Anche nel caso di accoglienza in parrocchia o nell'istituto religioso, chi ne beneficia sarà comunque seguito da una famiglia della comunità che dovrà accompagnarlo in un percorso di integrazione che oggi più che mai, anche e soprattutto dopo gli attentati di Parigi, appare la vera sfida dell'immigrazione. Un'esperienza portata avanti nella totale gratuità, perché i costi relativi all'accoglienza sono a carico delle famiglie e delle parrocchie. I costi finali saranno circa 6 volte inferiori a quelli ordinariamente sostenuti dalle istituzioni per la sola accoglienza. Noi vi proponiamo una prima parte dell'esperienza della Caritas di Padova. Ero straniero e mi avete accolto. Proprio sul sito caritaspadova.it c'è un filmato che racconta queste esperienze. Lo potete vedere, noi vi facciamo sentire una parte dell'audio che parte dal suono di una banda musicale. Nel mio paese io suonavo uno strumento, altri giocavano a calcio, io sono il tamburo e la batteria, sono un batterista. Cristiano, operatore della cooperativa che mi accoglie, mi ha inserito in questa proposta, una banda con le majorette. Je m'appelle Jobo Amidou Youssef, je suis togolais. Mi chiamo Youssef e sono del Togo, ho 27 anni. My name is Ismail. Io mi chiamo Ismail, ho 23 anni e vengo dal Gambia. Io mi chiamo Abdoulaye Abourayo e ho lasciato il Senegal. Io sono Lusahari e vengo dalla Nigeria. Ora la voce di una signora che le ha ospitati, Luciana. Ho risposto subito all'appello della Caritas, appunto, e ho scritto a loro via email: ho una casa, la volete? È qui. Una domenica che sicuramente me la ricorderò, è arrivato questo furgone con questi ragazzi pieni di sacchetti, sacchettini, però ho sentito è arrivata la novità, è arrivata l'umanità. Da quel giorno hanno cambiato la mia vita, perché ogni giorno mi interrogano su cosa vuol dire accogliere. Da quando sono arrivato nella casa di Luciana ho del buon cibo da mangiare. Lei ci dà il sorriso, ci dà anche dei lavori da fare. Ci aiuta a trovare anche qualche altro lavoro dei suoi amici in paese. Avevo un amico che mi aveva detto che c'era questa difficoltà nel reperire alloggi per i profughi, e visto che io avevo questa casa che noi utilizzavamo solo per vacanze, trattandosi anche di un periodo limitato, ho detto perché no. E poi alla fine sono stato un po' coinvolto nella gestione di questa cosa e devo dire che è stata un'esperienza più che positiva. L'immigrazione, noi abbiamo praticamente invaso il mondo, quindi insomma non vedo perché noi non possiamo dare una mano, visto che gli altri popoli a noi ce l'hanno data. Questo era Claudio, ora sentiamo la voce di Adriana. La cooperativa per la quale anch'io lavoro è stata scelta da Caritas Diocesana per gestire l'emergenza anche in questa provincia di Padova. Questa esperienza di accoglienza è nata un anno fa. La parrocchia, avendo a disposizione l'appartamento, ha pensato, ecco, di rispondere anche positivamente a questa richiesta di aiuto. Attualmente questa casa, ex casa delle suore, ospita 6 giovani profughi di differente nazionalità. Vengono dal Gambia, dal Senegal, dal Pakistan. Io sono Usman, io vengo dal Gambia. Io sono Muslim, io ho 20 anni, io vengo dal Pakistan. I am Ibrahim Diallo, I'm from Gambia, I am 20 years old. Sono partito dal Gambia dicembre 2013, dopo io sono andato al Senegal, e dopo qualche settimana, dopo Burkina, sono andato a Niger, dopo Niger sono andato a Libia. After Ramadan we have our... Dopo il Ramadan, quando ero in Libia, mi hanno detto ci saranno le elezioni, non sarà più un posto sicuro per te. Sì, anche mio padre è un problema, religione, sciiti e sunniti sempre un problema. Mi sono detto, adesso l'unica cosa che voglio è andarmene via, dovunque io possa avere una vita, perché non voglio morire. Sono scappato dagli assassini, adesso vogliono uccidermi anche qui in Libia. Guarda, io ho un figlio che ha la stessa età di alcuni ragazzi che sono qui, e quindi dopo aver ascoltato le loro sentito, i loro racconti, le loro esperienze, non posso immaginare di essere il padre di uno di questi ragazzi, perché la sofferenza è sicuramente qualcosa di non accettabile. Quando ero nella barca in mezzo al mare ho capito che stavo andando in Italia. Sì, sì, proprio l'Italia. Avevo sentito parlare di questo paese, dell'Italia, un paese dell'Europa che qualche volta avevo visto in televisione. TV? Ma non potevo proprio immaginare che un giorno ci sarei stato davvero. E sul sito caritaspadova.it, che voi potete vedere anche i volti, le espressioni e le attività di questi giovani ospitati appunto da alcune famiglie della diocesi di Padova, sono sparse nel territorio, sono tutte appunto micro accoglienze. Il progetto Rifugiato in casa mia, di cui parleremo anche la prossima settimana. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.